24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Standard & Poor's declassa l'Italia, il Fondo Monetario Internazionale rivede al ribasso le stime sulla crescita per il premier Berlusconi, il declassamento è colpa dei media. Le borse europee però tengono, Milano a dispetto, il downgrade chiude a più 1,91%. Bentrovati da Roberta Pellegata a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In apertura il taglio del rating sovrano dell'Italia da più ad A deciso da Standard & Poor's che accende la polemica tra il governo e l'agenzia di classificazione. Credibilità economica e politica dell'Italia messa a dura prova in una giornata campale per il paese. Prima l'agenzia di rating Standard & Poor's, poi il Fondo Monetario Internazionale hanno fatto scattare l'allarme. L'FMI ha tagliato le stime di crescita al più 0,6% nel 2011 e al più 0,3% nel 2012 con una sforbiciata netta. Non aiuta il contesto generale, con una ripresa definita più incerta, i rischi avverte l'FMI sono a ribasso. Il Fondo ha operato un taglio delle previsioni per l'Eurozona, più 1,6% quest'anno, più 1,1% il prossimo. Taglio netto anche per gli Stati Uniti, che quest'anno cresceranno solo di un punto e mezzo. Lo scenario peggiore è quello di una nuova recessione. Il problema per l'Italia resta la bassa crescita. Il governo deve continuare l'attuazione del risanamento di bilancio, avverte l'FMI. Secondo le previsioni, il nostro deficit si assesterà al 4% del PIL quest'anno, per superare di poco l'1% tra due. Il debito arriverà al 121,4% nel 2012, per poi calare. Ma come afferma il capo economista Blanchard, i mercati chiedono di vedere l'attuazione delle misure decise con la manovra. Se ciò non avvenisse, il debito potrebbe divenire insostenibile. Intanto S&P, dopo aver declassato il rating italiano ad A, rilancia. L'outlook resta negativo. Potremmo operare un nuovo taglio entro un anno. Per Moritz Kramer, analista di S&P, i fattori principali che hanno inciso sul taglio sono l'alto debito e la politica. Kramer ha messo il dito nella piaga della crescita, che soffre di mancate liberalizzazioni e poca competitività. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una polemica a distanza che non ha precedenti, quella tra il governo e l'agenzia di rating. Italia declassata, dice Berlusconi, tutta colpa degli organi di informazione, attacca il premier che aggiunge le valutazioni di Standard & Poor's appaiono viziate da considerazioni politiche più che dalla realtà dei fatti. Il Presidente del Consiglio quindi ricorda il governo ha sempre ottenuto la fiducia del Parlamento dimostrando la solidità della propria maggioranza. Pronta la replica da New York, i rating sovrani di Standard & Poor's spiegano dall'agenzia internazionale sono valutazioni apolitiche e prospettiche del rischio di credito fornite agli investitori. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E le borse europee hanno chiuso in rialzo a dispetto del taglio del rating sull'Italia da parte di Standard & Poor's e della revisione a ribasso delle stime sull'economia dei principali paesi da parte del Fondo Monetario Internazionale. Francoforte è salita del 2,88%, Parigi ha guadagnato l'1,5% e Londra l'1,98%. A Milano FTSE MIB su dell'1,91% e lo share dell'1,69%. Si è distinta Fiat, più 7%, sull'onda delle indicazioni fornite dall'amministratore delegato Sergio Marchione alla comunità finanziaria londinese. Il manager ha nuovamente confermato alla City i target per il 2011 e inoltre ricordato che Fiat salirà al 58,5% nel capitale di Chrysler entro fine anno. Sono salite le azioni delle banche, fatta eccezione per le BPR, rimaste al palo, e per le BPM, scivolate dell'1,89% alla vigilia del Consiglio di amministrazione che esaminerà la governance e un eventuale passaggio al duale. Hanno guadagnato il 2,3% le Mediobanca alla vigilia della riunione del Consiglio di amministrazione che esaminerà il bilancio. Ma intanto sono insistenti le ipotesi di un ribaltone nella composizione dei membri del board. A poche ore dall'inizio della settimana della moda a Milano sono salite le azioni del lusso, con Tod's che si è impennata del 3,2% e Luxottica del 3,24%, quest'ultima beneficiando anche delle indiscrezioni secondo le quali la società avrebbe presentato un'offerta per la licenza di Armani che sarà gestita da Safilo fino alla fine del 2012. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. E sulla reazione delle borse del differenziale tra BTP e Bund, il commento di Moria Longo del Sole 24 Ore. Io credo che il restringimento dello spread dopo un picco iniziale vicino ai 400 punti base sia in parte dovuto all'intervento della Banca Centrale Europea, ma soprattutto penso sia dovuto al fatto che Standard & Poor's non ha detto nulla di nuovo ai mercati. Che l'Italia abbia un debito pubblico altissimo, pari al 117% del PIL, lo sanno tutti. Che la crescita economica italiana sta scendendo, sta calando, lo sanno tutti, lo dicono tutti a tempo. Che l'instabilità politica sia un punto di debolezza per l'Italia, non solo per l'Italia, ma in questo caso parlando d'Italia, lo sanno tutti. Quindi sta